Sento il fischio del vapore nella partenza del mio amore. Si è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Tornerà sta primavera con la spada insanguinata. Se nell'amor non ho fortuna, mi voglio fare.